quiere cantar. Soy la voz, soy la voz. Ed eccoci qua in diretta. Oggi abbiamo tre ospiti che sono tornati qualche mese fa, all'inizio di dicembre, da Cuba. Sono due compagni e una compagna degli All Reds, che sono andati a giocare a Cuba contro la nazionale cubana, varie squadre cubane e la nazionale canadese, per un torneo che li ha visti difendere quantomeno l'onore combattivo del loro gioco, ma mi sa che non hanno fatto grandi risultati. Hanno vinto una partita, mi hanno detto, giusto? Così subito, insomma, ci ha introdotto bene, insomma, grazie. Vabbè, non conta quello, no? Ce l'avete insegnato voi. Esatto, effettivamente, dice, il risultato non è il primo obiettivo, anche se ovviamente non guasta mai starci attenti. E sì, siamo stati a cavallo tra novembre e dicembre a Cuba per partecipare a questo torneo di rugby a 7 che si chiama Havana Seven Oilers, organizzato da una squadra canadese, già ormai alla quarta edizione. E noi siamo andati, come hai detto tu, c'erano tre squadre cubane, la rappresentativa cubana di rugby a 7 più Cuba, la seconda squadra di Cuba, più una selezione di altri giocatori cubani, più questa squadra canadese che era l'organizzatrice. E il torneo era sia maschile che femminile, noi abbiamo partecipato ad entrambi e effettivamente, diciamo che rimanendo solo sul risultato sportivo, forse potevamo fare qualcosa di meglio. Diciamo che abbiamo pagato il fatto che noi veniamo da rugby a 15, quindi non eravamo propriamente preparatissimi. Sì. Esatto, probabilmente anche i giorni di mojito precedenti non hanno aiutato una corretta preparazione atletica e qualcuno, qualche malelingua, ha anche sottolineato che il fatto che le altre squadre avessero un'età media sotto i 25 anni e noi sopra i 30 forse non ci ha aiutato, insomma, in questo. Ma dei dettagli. Vabbè, quello era un vantaggio che non dipendeva dall'allenamento. Esatto. Però comunque, per quanti ci seguono e ci conoscono, possiamo comunque tranquillamente dire che al terzo tempo non c'è stata per nessuno, abbiamo dimostrato ancora una volta una superiorità schiacciante. Veramente. A Roma sempre quello è il campo in cui ci distinguiamo. E per voi siete già stati altre volte a giocare a Cuba? Era... Sì, questa era la seconda volta che andavamo a Cuba. E eravamo stati una prima volta nell'autunno del 2006 e all'epoca giocammo a 15, una partita a 15 contro la neonata nazionale cubana di rugby a 15. E quello fu un piccolo evento storico per noi, perché comunque era la prima partita che facevamo al di fuori dell'Italia ed era la prima partita che i cubani giocavano contro una squadra non francese, perché c'erano solo alcuni francesi che erano stati a Cuba prima di noi, avevano giocato con loro e noi abbiamo questo piccolo vanto che, insomma, che ogni tanto ci tiriamo fuori. E quindi eravamo andati nel 2006 nell'ambito di un progetto più ampio, perché c'era l'anniversario della provincia Havana nel 2006 e c'era una parte dedicata allo sport. Poi noi avevamo partecipato come All Reds a un progetto per la realizzazione di un consultorio sempre nella provincia Havana, insieme a una serie di realtà che hanno dei rapporti di, appunto, con la provincia Havana, che erano il Comitato Romano di Angelita e due circoli di fondazione, mi pare Santa Marinella e adesso non mi ricordo l'altro, scusatemi. E tramite questo tramite il SEDER Roma, noi come Orrezza abbiamo partecipato alla realizzazione di un consultorio nella cittadina di San Antonio de los Baños, che faceva parte appunto della provincia Havana. E in quell'occasione ci furono anche una serie di iniziative sportive di contorno organizzate, tra cui questa partita di rugby e degli incontri di box, quindi noi partecipiamo come squadra di rugby, altri compagni di Roma parteciparono all'attività di box. E avete anche visitato poi questo consultorio che avete... Sì, sempre nel 2006 il consultorio, ovviamente i fondi erano già stati raccolti, quindi fu l'occasione per andare a vedere quello che era stato realizzato con quanto raccolto in precedenza, e quindi sì, abbiamo visitato questo consultorio che appunto era nella cittadina di San Antonio, e fu ovviamente un'occasione estremamente importante di vedere dal vivo e realmente come erano stati investiti, come era stato investito quanto avevamo raccolto, e per noi insomma fu un'esperienza molto forte. Forse Giordano, vuoi aggiungere qualcosa di più specifico? Sembra che è stato esaustivo. Senti, invece prima parlavamo un po' del fatto che spesso uno, soprattutto anche qui, insomma, parliamo dell'America Latina sempre basandoci su quello che leggiamo, articoli e analisi, eccetera. Spesso abbiamo, almeno a volte abbiamo la fortuna di intervistare qualcuno che vive lì o che ci è andato a fare qualcosa in America Latina, e era anche questo un po' l'interesse dell'intervista di oggi, quello di vedere le impressioni che avete avuto a contatto con la società e con il sistema cubano. E tu mi dicevi che era la prima volta che andavi a Cuba, al contrario degli altri due compagni. Sì, io come tanti altri della squadra era la prima volta che andavamo a Cuba, appunto, e quindi l'emozione di tutto questo e la novità, e andare con altri compagni che già c'erano stati tante volte, ci ha aiutato a capire molte cose, e ovviamente abbiamo unito l'aspetto sportivo a quello poi ludico e appunto turistico, ovviamente, però insomma è stata molto molto particolare, intensa, abbiamo girato molto, stati più o meno per una cosa e l'altra insomma una ventina di giorni, chi un po' meno, chi più, poi ci siamo divisi nei percorsi, però appunto abbiamo visto oltre al torneo, siamo andati ad Artemisa, che è appunto sempre nella provincia della Havana, e stavolta abbiamo visto una casa famiglia, abbiamo visitato una casa famiglia, e è stato interessante vedere come è strutturato, come è organizzato, il fatto che fosse gestito praticamente da la maggior parte, insomma, sono tutte donne che gestiscono questa casa, e appunto sono bambine e bambini che dai 6, diciamo, ai 18 anni crescono con vari problemi di vario tipo, vivono in queste case molto ben organizzate, insomma, con la parte abitativa, la parte dormitorio, la cucina, eccetera, fanno diverse attività. Una cosa interessante appunto è che lo Stato, dopo arrivati ai 18 anni, con un inserimento insomma poi nella società, assegna una casa a ognuno di loro, e insomma è evidente come lo Stato sia presente nella crescita e nelle situazioni insomma di disagi vari, insomma, che possono venire dalla famiglia o da problemi di salute o psicologici, eccetera. E oltre a questo, appunto, ad Artemisa abbiamo visitato, alcuni di noi hanno visitato a San Antonio dello Sbagno, sempre nella provincia che dicevamo dell'Havana, la scuola di cinema, che è la più grande che c'è a Cuba e in tutta Latin America, è una scuola molto importante, che ovviamente è enorme, è una struttura tipo college, immerso nel verde, assolutamente isolato, molto molto interessante, insomma una struttura voluta da Marquez e costruita insomma da Fidel, ed è una sorta di appunto di struttura dormitorio dove c'è tutto, e lì si formano insomma i nuovi cineasti del Sud America, e gratuita insomma per molti paesi del Sud America, ovviamente per i cubani. E la cosa interessante è che eravamo in quei giorni a L'Avana, dove c'era il Festival Internazionale del Cinema Sudamericano. È stato molto interessante anche vedere questo aspetto, quanto sia vivo e importante insomma la cultura, il cinema, il teatro e vedere le grosse file ordinate fuori da tutti i cinema del centro, insomma, e vedere quanto è partecipato, quanto è variegato, insomma, la partecipazione è stata molto molto interessante, almeno io, perché insomma, mi interessa molto questo aspetto. E vabbè, la cosa interessante ti posso dire che per noi, per la femminile, insomma, è stata la prima volta Cuba e insomma partecipare a un torneo così. È la prima volta anche che facciamo un torneo di rugby a 7 a tutto campo, perché noi della femminile di Lorrezza giochiamo un rugby, la Coppa Italia di femminile di rugby a 7 a metà campo. E quindi è stato particolare anche questo. E poi venivamo da 3 giorni di diluvio incessante, incredibile. Tutti gli abitanti cubani, insomma, hanno detto che era da tanto non si vedeva una cosa del genere. E quindi questi giorni di diluvio romano, abbiamo proprio pensato a questo e al fatto che non c'è stata neanche un disagio in città, neanche una strada allagata. Certo. Eppure ti assicuro che non era niente di paragonabile a tutto questo, a questi giorni che ci sono stati qua a Roma, quindi per dire, ecco così. Infatti anche rispetto alle cose che stai dicendo della scuola del cinema eccetera, spesso ci viene descritta Cuba comunque in linea con l'idea che sia paese socialista, quindi paese dove non ci sono una serie di cose, c'è la miseria, non si ha magari accesso a tutte queste a queste cose. Invece evidentemente la scuola di cinema, come dicevi tu, gratuita, ma non solo questo, è totalmente visibile il contrario, nel senso, la cosa che vedi a partire dai piccoli centri, insomma, come Trinidad o insomma altri posti, Santa Clara eccetera, tu vedi proprio il contrario, vedi ragazzini e ragazzine che escono da scuola e felicemente o giocano per strada o vanno a scuola di danza o giocano a scacchi o scuola di musica, piuttosto che ovviamente qualsiasi sport, dal baseball al judo, karate. Una cosa, cioè, è incredibile, comunque vedi attività di tutti i tipi tutti i pomeriggi, è una cosa visibilissima, insomma, per strada. Questo almeno a me ha colpito molto, ovviamente sì, totalmente gratuito, cioè, l'accesso, considera che per esempio un carnet, per dire, cioè festival internazionale di un carnet di ingressi, di 20 ingressi più o meno, era se non sbaglio 20 pesos cubani, che era meno di un dollaro, esatto, ecco. 20 proiezioni in prima serata, cioè, e quindi già questo ti fa capire un attimo. Sì, quindi libero accesso a attività culturali e sportive, ricreative, sì, eccetera. Quello che manca, insomma, sono i beni di consumo, il consumismo che qua c'è, che forse è superfluo, esatto, forse. Che forse non è la cosa più importante nella vita del mondo, almeno non dovrebbe essere la cosa più importante. Ma guarda, se ti posso dire una cosa al volo, proprio da chi magari, io ero già stato a Cuba nel 2006 e a parte ovviamente trovarla notevolmente diversa a soli 7 anni di distanza, quello che ti posso dire è che a volte il dubbio che viene anche a noi che andiamo lì, che magari siamo cresciuti con il mito di Cuba, dice che vale, e quindi arriviamo lì alcuni di noi un po' timorosi, perché qualsiasi incrinatura a questa immagine mitica che ci siamo creati di Cuba la cominciamo a vivere male. E quello che invece ogni volta, questa seconda volta che siamo andati, quindi ogni volta che andiamo, ci viene da riflettere è che l'errore che possiamo fare è arrivare lì e ragionare nell'ottica di un mito che noi ci siamo costruiti, però in una realtà completamente diversa, cioè che è quella occidentale. Quindi ovviamente non possiamo andare lì e giudicare Cuba avendo comunque come formazione, come base di riferimento quella che può essere oggi Roma, comunque una società come quella italiana, che comunque ha avuto accesso negli ultimi 50 anni a tutta una serie di servizi e di beni, sia di seconda e di terza necessità, che a Cuba era oggettivamente difficile avere a causa del e accedere a causa del del blocco, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino e quindi alla fine dei rapporti privilegiati che si erano instaurati, quei rapporti con i paesi dell'ex blocco sovietico. Quindi è ovvio che devi cercare di calarti in quella realtà, e in quella realtà ti rendi conto, come diceva Chiara, che ovviamente il cubano medio ha tutta una serie di servizi che magari oggi tu non sei neanche più abituato a vedere come dei servizi, ma li vedi come un lusso che fortunatamente a volte ti puoi permettere, quindi come esempio andare al cinema. Invece lì la cultura, come la salute, come l'educazione, sono dei servizi che devono essere garantiti e accessibili a tutta la popolazione. Quindi poi è ovvio che puoi incontrare anche la persona che magari, vivendo in una realtà più a stretto contatto con il turista, quindi può essere più sensibile a certe cose, e magari trovi quello che si lamenta perché dice, che ne so, te c'ha le Adidas e io c'ho le Adidas di 2 anni fa, per dire. Però è ovvio che poi, ragionando anche con persone che abbiamo incontrato nel corso del viaggio, e ti rendi conto che comunque la popolazione è consapevole di questa particolarità e dei vantaggi che hanno rispetto a chi magari vive a soli 100 km in linea d'aria rispetto a loro in altri paesi del Centro America. Sì, una cosa che leggevo proprio riguardo a questo, anche al superfluo che dicevamo, è che a Cuba la compravendita delle automobili è tassata del 100%, cosa che rende molto difficile acquistare un'auto e che dovrebbe far sì che ci sono poche auto in circolazione, o comunque modelli vecchi che sono venduti usati, eccetera. Voi che impressione, vedendo le strade cubane, cioè come si muovono i cubani? La vedete più o meno? Avete visto macchine per strada? Come la... Ma guarda, il problema del trasporto pubblico c'è stato per tanti anni, si è cominciato a risolvere, diciamo, forse dopo il 2000 con degli aiuti dalla Cina. Comunque erano pochi e vecchi gli autobus che c'erano, era poco il petrolio e questi autobus vecchi consumavano tantissimo. Diciamo che con l'aiuto del Venezuela, che ha dato petrolio, con l'aiuto della Cina, che ha dato mezzi nuovi, la rete del trasporto pubblico si è intensificata. Rispetto alle automobili, guarda, non ti so dire se sono aumentate o diminuite, non mi sembra, comunque mi sembra che comunque gli stessi. Sì, ovviamente ci saranno meno macchine in circolazione di qua, e le strade non, sì, ci sarà traffico, tutte queste cose qua. Sì, sì, sì, sicuramente comunque sì, non sono tantissime le automobili che circolano e comunque sono utilizzate, cioè quelle poche che ci sono utilizzate in maniera... per lavoro, so, diciamo, sì, no, comunque da tante persone. Non c'è macchina che circola con una persona, una persona sola. È normale fare una qualsiasi strada provinciale o l'autopista e prendere a bordo tutte le persone che trovi lungo la strada che cercano un passaggio, cioè non c'ha senso viaggiare una macchina con una persona a bordo, se ne può portare 7, e questi sono i numeri più o meno delle macchine cubane, ecco, che caricano tranquillamente 7 persone. Diciamo che un fenomeno come che adesso in Italia sta prendendo piede negli ultimi 2 anni, non penso sia la pubblicità, perché che è tipo bla bla car, cioè il fatto che te devi andare, che so, da Roma a Caltanissetta e dici c'ho 3 posti in macchina, stecchiamo le spese di viaggio, lì vuoi per necessità, vuoi perché i mezzi erano quelli, vuoi perché è anche una cosa logica, anziché andare, come diceva lui, in uno, è praticamente la regola, quindi sì, sì. Bene, noi ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo qui in diretta su Latinoamericana 87.9 di Radio Onda Rossa con i compagni e la compagna degli Orrez, che ci stanno raccontando la situazione cubana, dove sono stati a fine novembre, inizio dicembre, per giocare contro alcune squadre cubane e una squadra canadese in un torneo di rugby, appunto. Buenos días.

Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Onda Rossa 87.9, questa è Latinoamericana. Continuiamo la nostra chiacchierata con i compagni e la compagna degli Orrez che sono stati a Cuba qualche settimana fa e che ci dicono ormai è passato troppo tempo, sono tornati a inizio dicembre. E stavamo facendo un po' un quadro della situazione cubana anche dal punto di vista dell'impressione immediata che si ha andando lì, visto che spesso è proprio quello quello che non si riesce a capire da qui, dall'Italia, se uno appunto non va a Cuba, non va a vedere direttamente questa realtà particolare, questo esperimento di società alternativa, di società comunista che c'è dal 1959. Stavamo, naturalmente, chi si fosse perduto la prima parte della trasmissione la potrà riascoltare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org e la metteremo prontamente in online. E andiamo un po' a continuare questa chiacchierata. Dicevamo che mi dicevate che siete stati anche a visitare la Isla de la Juventud, che è un ex carcere dove tra l'altro sono stati detenuti anche i fratelli Castro dopo il fallito assalto alla Moncada. Sì, la isla sta a sud di Cuba. Siamo andati dopo, un gruppo che si è separato è andato all'isola dove c'è questo carcere, che è un carcere che ci ha molto impressionato, insomma, io personalmente non ho mai visto una struttura del genere, sulla base di un carcere americano dell'Illinois, se non sbaglio, e appunto una struttura, sono quattro strutture circolari con al centro un'altra struttura, insomma, circolare, la mensa, se non sbaglio, centrale, ed è pazzesco, insomma, la prima impressione appunto è, sembra insomma di stare in un film dell'orrore, cioè ovviamente è rimasto lo scheletro di tutto questo, visitabile in diciamo una vallata estesa immersa nel verde, ci sono queste strutture insomma molto impressionanti perché sono circolari, totalmente aperte, e con delle celle che è un metro per due, se non sbaglio, dove c'erano lo spazio per due letti e insomma il bagno, un lavandino, eccetera. Sotto la struttura circolare, sotto c'erano tutte le docce, tutto questo assolutamente all'aperto, e già la struttura circolare in quel modo è completamente destabilizzante, e appunto lo scopo è quello di confondere e minare insomma l'equilibrio, e quindi è assolutamente impressionante per questo, no? Perché ti toglie l'orientamento e quanta gente c'entrava, non mi ricordo, qualche migliaia sì, di prigionieri. Ovviamente Raul e Fidel, quando appunto furono inchiusi lì, stavano nella parte dell'infermeria, in una parte adiacente, essendo prigionieri politici non potevano interagire con i criminali normali. E oggi tutto lo spazio lì attorno, tutti quelli che erano gli uffici delle carceri, sono adibiti a scuole, strutture appunto sportive, c'è un campo da baseball lì accanto, e appunto passando lì, visitando la zona, abbiamo visto insomma tantissimi bambini e bambine che appunto facevano judo, giocavano e uscivano dalle scuole, quindi è impressionante come quello spazio appunto di triste, di, sì, e di morte, di tortura, appunto oggi sia così invece vivo, e quindi loro convivono tranquillamente con questa struttura qua, sì, molto, molto positiva la cosa. E sì, questa è stata una delle cose particolari insomma che abbiamo visitato, e niente. Beh, sì, è interessante anche come questo, diciamo, simbolo di annullamento della libertà poi venga riutilizzato e stravolto completamente nella sua finalità d'uso con attività del genere. Ma torniamo al sistema cubano. Prima hai accennato che in questa casa famiglia è dove i ragazzi rimangono fino a 18 anni, poi quando escono lo Stato gli dà una casa. Come funziona a Cuba tutto questo, insomma, come si prende casa, come si trova lavoro, come si sceglie un lavoro, come Sì, diciamo che sono argomenti molto complessi perché funzionano in maniera completamente differente rispetto a quelli che sono i parametri nostri. Il discorso della casa, una casa come costituisce un nucleo familiare? Una casa ti viene assegnata se nessuna delle due famiglie d'origine ha una casa sufficientemente grande per ospitare il nuovo nucleo. Le case sono, diciamo, finite, a un certo punto le case sono finite e sono in costruzione un sacco di nuove case. Forse il modo più particolare, nel quale si riesce ad avere una casa è che praticamente ti assegnano una terra, un pezzo di terra, i materiali per costruirla e la possibilità di usufruire dell'aiuto di tutta una cerchia di persone che va dai parenti, amici e agli abitanti della stessa zona dove verrà costruita, che ti aiuteranno nel costruirla. Cioè, quindi se ci sono zone del paese dove ancora ci sono case da assegnare, vengono assegnate. Zone in cui queste case sono esaurite, considerando che la manodopera, in particolare quella edilizia, non è tanta a Cuba, praticamente uno la casa se la costruisce, ti viene assegnato un pezzo di terra, i materiali e niente, questa possibilità di, cioè, ferie per tutte le persone che conosci, parenti, amici, per tutte le persone che abitano nel quartiere dove tu ti vai a stabilire, che costruiscono, tirano sulla casa. In genere, se ci sono le competenze all'interno di quella zona o della cerchia di persone, competenze specifiche per tirare su una casa, si fa completamente in maniera autonoma, oppure c'è l'ausilio di qualcuno che, ecco, dà quel contributo tecnico necessario per tirar su la struttura. Questo mi è sembrato il modo più particolare, più diverso da quelle che sono le modalità con le quali qui nelle nostre società uno si organizza per risolvere il problema. Senti, visto che hai detto che manca manodopera edilizia a Cuba, ma come funziona l'immigrazione? Perché vista la crisi, magari vado lì e sarebbe interessante, nel senso che non si può, nel senso che non da paesi del primo mondo, nel senso che puoi andare a diventare cubano se ti sposi con un cubano e quindi diventi a tutti gli effetti cubano, e però, ecco, le attività che puoi fare sono quelle che fanno i cubani. Quindi Cuba comunque è un paese povero del terzo mondo, gli stipendi sono stipendio minimo che cresce anno dopo anno, comunque ancora non arriva, penso, ai 400 peso nazionali mensili, che sono intorno ai 20 dollari. Quindi ecco. Senti, e come funziona il lavoro a Cuba? Come si arriva a fare un certo tipo di lavoro? C'è una scelta o... Diciamo che non esiste disoccupazione, nel senso, a Cuba non lavora chi non vuole lavorare, nel senso che già dalla scuola comincia una specializzazione, già dalla scuola più o meno che la nostra media comincia una specializzazione in cui ognuno sceglie, dà tre preferenze su quelle che sono i percorsi di studio che potrebbe prendere. Queste preferenze vengono accettate in base a quelle che sono le esigenze della società, nel senso a quelli che sono i possibili posti di lavoro che ci sono, nel senso impieghi che potrai trovare poi una volta terminati gli studi, e in base a quanto sei bravo, nel senso che se ci sono più richieste per determinati posti, ecco, in base a quanto sei bravo potrà essere la tua prima o la seconda o la terza preferenza che hai dato. Una cosa che ho scoperto casualmente leggendo un articolo è che comunque se tu diventi adulto e non hai seguito il percorso di studio che era il tuo primo, perché comunque non eri così bravo da poter fare quella che era la tua prima preferenza, ti veniva in futuro, diventato adulto e quindi concluso quel percorso di studio, comunque se la società tornava ad aver bisogno di quella che era la tua prima richiesta che non eri riuscito a fare, comunque avevi un percorso privilegiato per tornare a studiare quella che era stata la tua, così l'avevo trovato particolare, perché comunque un'attenzione che comunque prosegue, ecco, nel senso. Certo. E forse ora ci prendiamo un'ultima pausa musicale, così torniamo in diretta, sono rimasti 10 minuti, poi siamo costretti a lasciare il telefono a impatto, che vedo già agguerrito dietro il vetro, sempre terrorizzandoci se sforiamo di qualche minuto. Quindi

prima la tendenza era che il cubano che si sposava con una persona vedente da, che veniva dal primo mondo, si spostava in quelle che erano in quelli che erano i paesi del non cubano, nel senso, quindi venivano in Europa, andavano in Nord America. Negli ultimi anni no, è cambiata moltissimo la tendenza e credo che siano ormai la maggior parte dei matrimoni misti fra cubani e non cubani, dove comunque il proveniente dall'Europa o dal Nord America comunque si stabilisce a Cuba, quindi nel senso che il cubano rimane a vivere a Cuba e con il compagno non cubano. Questo un po' si legava a quello che dicevi prima e ha risolto un po' il problema dell'avere, perché comunque Cuba è una società serena dove si vive bene, si sta bene, la cosa che manca è l'avere. Comunque sì, rimane un paese povero, ecco, ma non bisogna mai dimenticare questo. E questa nuova formula, nel senso che comunque stabilirsi, cioè trovare a Cuba la possibilità di avere soldi in valute forti, quindi con un coniuge che viene da paesi ricchi, alla fine risolve questo problema. Sì. Bene, noi a questo punto vi lascio i microfoni per darci i vostri appuntamenti prossimi. Ma sì, ne approfittiamo. Allora, vai. Uno è quello immediato di sabato prossimo, sabato 8 dalle 14, che praticamente sul nostro campo arriveranno dei giovani piccoli futuri rugbisti. Inizieremo il nostro percorso delle giovanili per la prima volta e a conclusione di un ciclo che è stato fatto nelle scuole, in una scuola elementare in particolare della Portuense, che è la Vaccari, arriveranno ragazzini di quarta e quinta elementare e inizieremo questo percorso che poi dal sabato successivo diventerà un appuntamento fisso e speriamo, insomma, porterà sempre dalle 14 in poi un paio d'ore insomma con il nostro gruppo tecnico per insegnare il rugby, insomma, è il nostro modo pure di fare sport, è assolutamente diverso da tutte le altre società, insomma, è dove speriamo di insegnargli non solo, insomma, il gioco, il nostro modo, ma anche l'autogestione e quello che significa per noi, appunto, stare in uno spazio occupato e fare rugby in modo diverso, ecco, appunto. E quindi poi da sabato prossimo in poi ci saranno questi appuntamenti e speriamo diventeranno, insomma, i nostri piccoli orrezzi. Sono aperte le giovanili anche per chi non fa parte di queste? Sì, questo di sabato prossimo è un primo appuntamento per concludere questo ciclo con questa scuola, che appunto alcuni di noi sono andati a fare delle lezioni lì nella scuola e ha avuto molto successo e cerchiamo di portarli appunto al campo, all'Acrobax e fargli conoscere questa realtà e cominciare un percorso con loro. Dopodiché da sabato successivo saranno appuntamenti aperti a tutto, ovviamente, e quindi ragazzini più o meno dagli 8 ai 13 anni, insomma, sono invitati a venirsi, insomma, a divertire un paio d'ore con noi. E intanto questo, e poi ci dice Stefano i prossimi appuntamenti importantissimi di domenica. E per chi ci vuole seguire, questa domenica il 9 e giocheremo a Tivoli alle 14:30 e invece è molto più semplice per chi ci vuole seguire in casa. La domenica successiva, il 16 febbraio, giocheremo sempre dalle 14:30 in casa al campo dell'ex Cinodromo in via della Vasca Navale 6 contro il Campoleone Lanuvio. E poi, sempre per chi magari ci vuole seguire, se è incuriosito e vuole vedere le fantastiche immagini degli Orez a Cuba, a breve ci sarà un'iniziativa dedicata a questa nostra esperienza cubana con una mostra fotografica, una cena a tema. E quindi seguiteci sul nostro sito www.orez.it o sulla nostra pagina Facebook Orez Rugby Roma e avrete tutti i dettagli sulla data e l'ora imperdibile e sulle quantità di rum a disposizione. Bene, senti, ma come state messi quest'anno in campionato? È ciclico, quindi ha iniziato in un modo e chiude allo stesso modo. E diciamo che diplomaticamente possiamo dire che siamo abbastanza peggio di come ci aspettavamo da questa stagione, insomma. E abbiamo fatto sì dei bei risultati, il problema è che non abbiamo avuto continuità, insomma. Vabbè, forse il viaggio a Cuba ha un po' distratto. Non lo dire, perché chi è rimasto a Cuba non fa altro che ripetercelo, e quindi stai dando. Chi è rimasto a Roma non fa altro che ripetercelo, e quindi non farei altro che dargli la scusa per ripetercelo in continuazione. No, no, vabbè, ma sicuramente ne valsa la pena, però, visto le cose che ci avete raccontato. Certo. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. E spero che ci risentiamo presto anche per altri approfondimenti. In ogni caso. E ci vedremo a questa iniziativa quando sarà fissato il giorno, e noi a questo punto vi salutiamo tutti e tutte quelle che ci hanno seguito, anche e soprattutto chi lo ha fatto privato della propria libertà personale.